storia del santo curato d'Ars. Mi pare che sia una storia molto affascinante, soprattutto per i sacerdoti, dove noi troviamo un grande modello di vita per il nostro cammino, per la nostra missione sacerdotale. Ecco, vorrei iniziare subito dicendo una cosa che mi sembra molto importante, che già abbiamo rilevato giovedì scorso, riguardo a Sant'Ignazio Loyola. Il Signore suscita nei vari momenti della storia dei santi particolari che hanno un carisma particolare perché la Chiesa possa superare certi momenti difficili. Avevamo parlato di Sant'Ignazio come l'uomo della provvidenza che aiutò la Chiesa a superare un momento molto molto difficile, e così anche il curato d'Ars, che si chiama Giovanni Maria Vianney. Basti pensare che nasce nel 1786, proprio nel periodo in cui scoppia la rivoluzione francese e in cui nel mondo, nell'Europa soprattutto, si fanno avanti queste idee che possiamo anche fare a meno del vero Dio, perché noi abbiamo la Dea Ragione che ci sostiene. Noi uomini abbiamo la ragione, e quella è l'unica cosa che veramente vale, l'unica cosa che ci farà risolvere tutti i nostri problemi, l'unica cosa che ci darà la vera salvezza. Ecco, il curato d'Ars viene appunto nel mondo in questi anni, a cavallo fra il 700 e l'800, per smentire decisamente questa eresia, per riaffermare con forza che il vero Dio è uno solo e che il vero Dio non bada tanto alla Dea Ragione, ma bada soprattutto a che noi ci apriamo a Lui con la fede, che noi siamo Suoi umili servi, e allora sì, potremo collaborare con Lui alla salvezza del mondo. Ecco, voglio subito raccontarvi un fatto, che è un fatto che riguarda l'infanzia, diciamo la prima adolescenza del curato d'Ars. Quando lavorava nei campi con suo fratello Francesco, ci fu una volta una persona che, passando dalla sua casa, una suora gli regalò una statuetta della Madonna. Lui provava molta umiliazione prima, perché lavorando col fratello maggiore nei campi, lui rimaneva sempre indietro nel lavoro, ed era una cosa molto umiliante, anche se il fratello cercava di comprenderlo perché avevano qualche anno di differenza. Ecco, allora, da quel giorno, quando ebbe in dono questa statuetta della Madonna, la portò sul campo di lavoro e, non sapendo dove metterla, la gettava davanti a sé. E ecco che lavorava sodo, curvo sui suoi arnesi per dissodare la terra, e voleva raggiungere presto questa Madonna, questa statuetta della Madonna. Per cui in questo modo divenne ancora più veloce del fratello. Ecco, fu un espediente che gli diede la capacità di lavorare quanto il fratello e più del fratello, per raggiungere la Madonna. Ecco, un po' la sua vita è un pochino tutta, diciamo, sintetizzata in questo fatto. Il curato d'Ars vedremo che avrà molta difficoltà anche negli studi per diventare sacerdote, ma getterà sempre avanti a sé la Madonna, essendosi donato tutto a lei, e lei gli permetterà di proseguire spedidamente il suo cammino e di giungere felicemente al sacerdozio e di essere un santo sacerdote, forse come mai nessuno c'era stato prima. Ecco, comunque parliamo di Giovanni Maria Vianney, giovane, adolescente, un ragazzo molto devoto, per cui la preghiera è la cosa fondamentale, un ragazzo molto obbediente ai suoi genitori, molto rispettoso, molto attaccato al lavoro. Purtroppo non aveva potuto istruirsi, appena appena capace di leggere e di scrivere. Ogni ora che sentiva suonare al campanile, lui pregava nei campi, aveva questa abitudine di benedire l'ora, dicendo un'Ave Maria e dicendo sempre questa formula: Dio sia benedetto, coraggio anima mia, il tempo passa, l'eternità si avvicina, viviamo come dobbiamo morire. E poi aggiungeva quella formula che noi spesso ripetiamo: sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Ricordiamo anche un'altra cosa molto interessante, che il giovane Vianney, quando i suoi familiari, dopo il modesto pranzo di mezzogiorno, si stendevano un po' sull'erba per riposare, lui faceva finta di riposare, ma invece pregava e meditava. E fu proprio in questi minuti che passava in raccoglimento che Giovanni Maria Vianney sentì la chiamata di Dio, che gli diceva: lascia tutto, vieni e seguimi. Naturalmente questa chiamata doveva essere corrisposta, e Giovanni Maria Vianney sapeva, almeno si immaginava, le difficoltà che ne sarebbero venute. Anzitutto la prima difficoltà che lui immaginava era appunto quella di doversi istruire. Era un ragazzo già abbastanza grande, aveva già passato i 15-16 anni, per cui il suo cervello era praticamente molto arrugginito e soprattutto era arrugginita la sua memoria. Come farò adesso che sono così grande a imparare il latino? Come farò a imparare tutte le altre cose che sono necessarie per diventare sacerdote? E già questo pensiero lo preoccupava molto. E poi si chiedeva anche: cosa ne penseranno i miei genitori di questa mia decisione? Accoglieranno benevolmente oppure saranno anche loro più preoccupati di me? Fatto sta che Giovanni Maria Vianney prende il coraggio a due mani e si confida coi suoi genitori. Quando lo dice alla mamma, alla zia, queste sono entusiaste, lo abbracciano, si complimentano con lui, ringraziano con lui il Signore per aver avuto questo pensiero di chiamarlo al sacerdozio. Però adesso rimaneva l'ostacolo principale, dirlo al papà. Giovanni Maria, ho incoraggiato dalla madre, proprio durante l'ora del riposo, della siesta, tenta di parlarne al papà, però il papà si mostra subito inflessibile. Le previsioni del giovane puntualmente si avverano. Il papà aveva dovuto sostenere delle grandi spese in questo periodo, aveva dovuto anzitutto preparare la dote per la figlia Caterina che doveva sposarsi, anzi che si era sposata da poco. Poi aveva un ragazzo da mandare a soldato, per cui andava anche lì, andava raccolta una bella cifra per riscattarlo. Allora si usava così: chi andava alla visita militare e estraeva un numero sfavorevole, per cui doveva andare a soldato, se i genitori lo volevano tenere a casa dovevano pagarne un altro al suo posto. Per cui il papà era molto preoccupato, perché doveva sborsare molti quartierini per riscattare queste due braccia, che non poteva assolutamente permettersi di lasciare andare a militare. Quindi il parere del padre è assolutamente sfavorevole. Non avrebbe potuto mantenere gli studi un giovane. Sarebbe stata la rovina della famiglia. Non c'era neppure da pensarci. E dovete sapere che questa lotta fra padre e figlio per ottenere il permesso di potersi dedicare agli studi sacerdotali durò molto tempo, durò ben 2 anni. Però la provvidenza ha messo alla prova il suo servo per altre battaglie in futuro ben più difficili. Si venne a sapere, dopo circa 2 anni, che in un paese vicino, che si chiama Equilly, un certo Don Carlo Balley aveva aperto un piccolo seminario. Ecco, dovete sapere che questa è l'epoca di Napoleone, che Napoleone ha fatto chiudere tutti i seminari minori, non li vuole più nel suo territorio. Permette solo a malincuore i seminari maggiori, cioè i seminari teologici, dove i giovani si preparano per 3 o 4 anni a diventare sacerdoti. Allora, qualche pio sacerdote, qualche pio parroco in alcune case canoniche aveva aperto qualche piccolo seminario privato, e così Don Carlo Balley, nella parrocchia di Equilly, che distava qualche chilometro dal paese di Giovanni Maria Vianney, aveva aperto una scuola del genere, e la cosa fu risaputa all'intorno, e anche la famiglia di Giovanni Maria Vianney venne a saperlo. appena Giovanni Maria seppe che esisteva questa scuola, si sentì aprire il cuore alla speranza, naturalmente. Forse questa poteva essere un'occasione favorevole per tentare un assalto definitivo presso suo padre. E la cosa fu preparata così, con la mamma. Avrebbero dovuto dire che il ragazzo non entrerà in seminario, andrà soltanto a scuola presso un parroco. E lì passerà la notte e prenderà le sue lezioni, mentre i pasti li consumerà presso la zia che abita nello stesso paese, per cui eviterà anche di pagare la retta. Praticamente potrà studiare senza nessuna spesa. Per cui ne parlano al papà. E sembra che questa volta il papà sia davvero deciso a lasciare andare suo figlio. I pasti verranno presi presso la zia, per cui dice: sono tranquillo, non devo tirar fuori niente. Però adesso c'è un'altra difficoltà, dobbiamo parlarne a Don Carlo a vedere se ti accetta. Allora la mamma e la zia prendono il coraggio a due mani e si recano a piedi presso questo pio, questo santo sacerdote, e gli manifestano questo desiderio che il loro figliuolo potesse essere ammesso alla scuola. Il sacerdote risponde che non può, dice: sono già così occupato con altri giovani che non posso ricevere un allievo di più. Però le donne insistono, allora lui taglia corto: non posso, andate via, non posso fare niente per voi. Però la famiglia Vianney non desiste dal tentativo. Il cognato di Giovanni Maria, quello che aveva sposato la sorella Caterina, adesso si fa avanti a lui presso il parroco di Cuyi e dice: ma guardi, reverendo, se lei lo vede questo ragazzo, vedrà che lo ritiene subito adatto per essere sacerdote e vedrà che farà ogni sforzo pur di accontentarlo. Insisti, Don Carlo dice: vabbè, portatemelo qua che lo vedrò. E quando lo vede, questo ragazzo di 19 anni, magro, pallido, che raccolto, timido, gli rivolge subito delle domande, lo trova molto istruito nella religione e gli piace soprattutto questo suo aspetto, questo suo sorriso espressivo, confidente. E allora si entusiasma e dice: questo sì, lo accetto. E gli dice subito: amico mio, sta tranquillo, se sarà necessario mi saprò anche sacrificare per te. Per cui vediamo a questo punto Giovanni Maria Vianney, quasi ventenne, alla scuola parrocchiale di Don Carlo Balley, iniziare il suo cammino verso il sacerdozio. E qui iniziano subito altre difficoltà, le difficoltà scolastiche che saranno poi le difficoltà più gravi per lui in questi anni fino al sacerdozio. E gli anni saranno ancora molti, quasi 10. Praticamente era un vecchio fra ragazzi. Lui aveva 20 anni, gli altri ne avevano 14-15 al massimo. Sente il peso enorme dello studio, soprattutto lo studio del latino. Nell'età in cui i ragazzi mettono le basi del sapere, lui si era consumato totalmente nella vita dei campi, per cui adesso diventava un'impresa molto molto difficile. Lui ce la mette tutta, veglia anche la notte, si ostina, però vede che i risultati sono quasi nulli. Allora, dopo un po' di mesi, che lotta per riuscire almeno un pochino negli studi, si lascia prendere dallo scoraggiamento e viene in lui una grave crisi, una crisi spirituale che poteva essere anche fatale, non avremmo avuto quel santo che abbiamo avuto poi. E lui pensa alla vita dei campi, dove riusciva molto bene, se la cavava benissimo, e dice tristemente a Don Carlo: voglio tornarmene a casa, lo studio ormai mi disgusta, ho capito che non è una cosa fatta per me. Però il suo vecchio maestro comprende che questa è una crisi è una crisi che lui deve aiutarlo a superare. E dice: dove vuoi andare, ragazzo mio? Tu vai in cerca di dolori. Sai bene che tuo padre non chiede altro che tenerti a casa. Se ti vede così sfiduciato, è finita. Allora addio bei progetti, Giovanni Maria, addio sacerdozio, addio anime. E penso che abbia usato una voce così. E fu proprio questo l'argomento decisivo che gli fece superare la crisi. Dire addio anime era per lui una pugnalata, perché per lui le anime erano tutto l'ideale che aveva per il futuro. No, questo no. Dio non lo permetterà. Signore, fai in modo che io possa proseguire nei miei studi, perché le anime mi attendono, perché tu mi hai chiamato per salvare le anime. A questo punto dovete sapere che il giovane Vianney fa un voto eroico, ricorre a un espediente eroico per riuscire negli studi. Dice: dato che non riesco per niente, farò un lungo pellegrinaggio penitenziale di 100 chilometri sulla tomba di un santo che fu il grande apostolo di queste zone, San Francesco Regis. Farò un pellegrinaggio a piedi mendicando il pane nell'andata e nel ritorno. Una cosa davvero molto impegnativa. A 20 anni, durante la bella stagione, parte per questo pellegrinaggio. Senza aver niente con sé per il vitto. Ha dei soldi in tasca, però ha fatto voto che non li deve usare questi soldi. Il cibo lo deve mendicare. Per cui comincia, dopo molte ore di cammino, comincia a sentire i morsi della fame e si ferma a una casa e bussa alla porta. Ma dal di dentro gli rispondono male. Pensano che sia una persona malintenzionata, per cui lo maltrattano molto. Lui prosegue il viaggio tristemente e la stessa cosa gli capita diverse altre volte. Comunque, nel giro di qualche giorno riesce a racimolare qualche pezzo di pane secco e riesce a raggiungere questo santuario e riesce a inginocchiarsi di fronte a questo corpo santo di San Francesco Regis. E quando giunge là dice solo queste parole: caro San Francesco Regis, ottienimi la grazia di imparare abbastanza latino per poter fare teologia. E sappiamo che questa grazia la ottenne però appena di misura, appena sufficiente. Dio, che ha i suoi disegni su ogni anima, provando la fede del suo servitore, voleva agguerrirlo per più eroici combattimenti. Quando si trova in questo santuario, si confessa, espone al confessore le sue decisioni, il suo voto di fare il viaggio di andata e ritorno mendicando il pane. Lui dice: no, adesso ti posso commutare il voto, nel ritorno puoi procurarti il cibo senza bisogno di mendicare, a patto che invece di ricevere l'elemosina tu la faccia l'elemosina. Difatti il viaggio di ritorno fu molto più agevole, per cui Giovanni Maria Vianney presto raggiunge di nuovo la canonica di Écully presso Don Valley e si accorge effettivamente che il suo cervello, pur essendo arrugginito, tuttavia adesso è più pronto e più duttile nell'apprendere. Quindi un primo ostacolo è già stato superato. Adesso ascoltiamo una canzone e poi continueremo nella nostra storia. A questo punto, cari ascoltatori, soprattutto cari sacerdoti, giunge un'altra molto grave difficoltà, una chiamata in attesa alle armi. Dovete sapere che in questo periodo si era riusciti a ottenere dall'imperatore l'esenzione alle armi per tutti i seminaristi, per tutti i candidati al sacerdozio e per tutti gli allievi dei seminari maggiori e minori. E fra di questi allievi era stato iscritto anche Giovanni Maria Vianney, per cui doveva risultare presso il distretto militare che anche il suo nome doveva essere esonerato dal servizio militare. Ma giunse invece una chiamata in attesa. Don Carlo Balley si fece premura di andare a Leone a vedere un po' come stavano le cose e risultò purtroppo che il nome di Giovanni Maria Vianney, insieme ad altri nomi, non era stato per sbaglio messo nelle liste dei seminaristi. Per cui all'età di 23 anni questo ragazzo, con tutte le difficoltà che già provava nello studio, dovette interrompere per lungo tempo lo studio e andare a fare il servizio militare. Ma ecco come andarono le cose. Appena giunto a destinazione, dopo pochi giorni si ammalò gravemente, fu ricoverato all'ospedale. Di lì guarì in 2 settimane e il suo reggimento fu trasferito altrove, ma anche lì si ammalò subito e fu ricoverato per ben più lungo tempo, per circa 1 mese e mezzo all'ospedale. Appena uscito, non ancora ben guarito, anzi ancora molto convalescente, ecco, Giovanni Maria Vianney viene subito spedito al fronte, però in attesa che i suoi compagni si raccolgano tutti insieme, lui va in una chiesa a pregare. E ci sta molto molto tempo, la sua adorazione è prolungata fino a tarda ora, per cui quando si risveglia da questa specie di estasi si accorge che l'ora è passata, l'ora convenuta per il raduno è passata. Allora si sente molto smarrito, si presenta ai superiori, i quali gli danno una sgridata forte, e però tuttavia riesce a ottenere dal capitano una lettera di raccomandazione perché lui possa ancora unirsi al suo distaccamento, cercando di forzare un po' le tappe, di correre un po'. Però essendo stato da poco ammalato, non ce la fa a accelerare il passo, si sente sfinito, per cui a un certo punto si arrende e si siede sul ciglio della strada sfinito e ormai senza più alcuna speranza di raggiungere i suoi compagni di leva. A questo punto, mentre recita il rosario con grande sconforto, con grande tristezza, ecco, vede avvicinarsi a lui un altro giovane che gli dice: «Ma perché sei così triste? Ho capito che sei un militare, ma non angustiarti se non hai potuto raggiungere il tuo distaccamento. Vieni con me, ti porterò io almeno per passare la notte». Questo giovane era un disertore, uno dei tanti disertori che si nascondevano nella zona, dato che era una zona piuttosto popolata da boschi, per cui era più facile nascondersi per i renitenti alla leva. Giovanni Maria Vianney viene accompagnato da questo giovane disertore che si chiamava Guido presso il sindaco del paese più vicino che si chiama Noè. E Giovanni Maria desidera che il sindaco stesso si interessi perché la cosa sia chiarita e perché lui al più presto possa essere spedito al fronte coi suoi compagni. Però il sindaco gli dice: «Ormai è troppo tardi, in ogni caso risulteresti un disertore. Guarda, ti voglio aiutare, io non posso nasconderti nella mia casa, perché nella mia casa i gendarmi sono sempre qua a frugare, ma ti manderò presso una mia parente, una vedova che abita qui di fronte. Vedrai che ti troverai bene presso di lei, perché ha diversi figli e tu magari potrai aiutarla nei lavori dei campi, nei lavori della stalla, e potrai anche magari insegnare qualcosa ai suoi figlioli che sono quasi tutti analfabeti». Per cui Giovanni Maria Vianney, a 23 anni di età, è costretto a passare quasi un anno in casa di questa vedova, nascosto a causa di questa avventura. Era passato ormai per un disertore, per cui i gendarmi lo cercavano per condannarlo e andavano spesso a visitare anche i suoi familiari, i suoi genitori, per vedere se lui magari si nascondesse in casa loro. Comunque, questo tempo passa non nell'ozio. Giovanni Maria si dedica ai lavori agricoli e anche apre una piccola scuola, lui che era pure tanto poco valido negli studi, tuttavia apre una piccola scuola per le persone analfabete nella casa di questa vedova. E per lunghi mesi fa, lui che è un allievo così, diciamo così, poco valido, tuttavia fa da maestro alla gente meno istruita di lui del paese. Intanto il tempo passa, una volta 2 gendarmi vengono a fare una perquisizione nella casa di questa vedova, lui viene in tempo nascosto in un fienile, dove gli sembrava di soffocare, e i gendarmi con le loro baionette tastano il fieno per vedere se qualcuno sia nascosto e così feriscono anche il giovane Vianney. Naturalmente lui non urla, perché sennò sarebbe finita e sarebbe messo in prigione. Comunque il tempo passa e siamo all'apice della carriera di Napoleone. Napoleone ha vinto gli austriaci, Napoleone si è sposato, e allora questi avvenimenti così gloriosi per lui lo inducono alla clemenza, per cui indice un'amnistia liberatrice. Grazie a questo matrimonio con l'arciduchessa Maria Luisa, grazie alla sua vittoria strepitosa sull'Austria, Napoleone ha portato un atto di clemenza e tutti i renitenti alla leva, tutti i disertori, sono dichiarati liberi di tornarsene a casa, che non avranno alcuna punizione. Per cui anche per Giovanni Maria Vianney è la via della libertà. Ma ecco un'altra cosa tragica che succede a questo ragazzo, che noi diremmo tanto sfortunato, però è sfortunato solo dal nostro punto di vista umano. Appena ritornato a casa non fa in tempo a riabbracciare sua madre e suo padre, non fa in tempo a gustare la gioia di trovarsi in famiglia dopo questi mesi di separazione, di segregazione dal mondo che la mamma sua, suo grande sostegno nella vita, lascia questo mondo e muore. Ecco allora Giovanni Maria ancora nella tristezza, nel pianto, nel lutto. Ecco Giovanni Maria ancora di più si sente di attaccarsi a Gesù e alla Madonna e riprende gli studi presso Don Carlo Balli, che però a questo punto vuole che il suo allievo compia un passo decisivo. Ormai ha quasi 25 anni, sono passati quasi 2 anni da quando era stato chiamato al militare, e Don Carlo Balli lo vuole iscrivere alla tonsura, vuole che il suo allievo, anche se era un po' pericolante negli studi, ma tuttavia molto molto vivo e valido nella pietà, possa finalmente fare quel passo decisivo per farlo entrare nel mondo ecclesiastico. Ecco, sappiamo che oggi non c'è più la tonsura, comunque c'è sempre una cerimonia che introduce nello stato ecclesiastico, che di solito avviene prima di iniziare l'ultima parte degli studi teologici. Quindi Giovanni Maria Vianney diventa Don Vianney e viene iscritto nel clero della diocesi di Lione, anche se gli anni da passare negli studi saranno ancora parecchi. A questo punto Don Balli crede giunto il momento di introdurre il suo allievo in un corso regolare di studi. Bisogna però qui dire una cosa molto importante, che nella diocesi di Lione l'arcivescovo cardinale Fesch era niente meno che lo zio di Napoleone, e questo cardinale Fesch a quanto pare è un uomo molto sapiente e ha scritto che bisogni tanto urgenti e numerosi non permettevano a lui di attendere che i giovani aspiranti al sacerdozio avessero finito i loro studi. Quindi non appena avevano 2 o 3 anni di teologia, egli imponeva loro le mani e li inviava nel ministero. Solo su un punto era intransigente con essi, ed era la pietà. Quanto all'istruzione, si accontentava che possedessero la scienza conveniente, cioè che fossero in grado di risolvere i casi ordinari, riservandosi di consultare i superiori in quelli straordinari. In questa nota si dice anche che il cardinale Fesch sperava in un avvenire migliore. Verrà giorno, scriveva, in cui esigeremo 4 anni di seminario maggiore, 4 anni di teologia. Intanto dobbiamo andare incontro a tante parrocchie abbandonate. Questo mi sembra degno di nota. Sarà proprio un decreto che favorirà moltissimo il chierico Giovanni Maria Vianney. Comunque adesso viene iscritto da Don Balli al seminario minore di Verrières, perché lì facesse un anno di filosofia, diciamo di studi superiori, prima di entrare negli studi teologici. Dovete sapere che questo seminario non era un vero seminario, anche questo era una scuola parrocchiale a suo tempo, però una scuola parrocchiale che si era molto sviluppata. E lo stesso cardinale volle che in questa casa si raccogliessero tutti gli allievi che poi dovevano passare al seminario maggiore teologico, anche se di per sé sarebbe stato proibito un seminario minore. Però lui, dato che era lo zio di Napoleone, poteva anche permettersi questa eccezione alla regola. E poi, nel caso che fossero venuti i gendarmi a controllare, si poteva sempre dire che era un distaccamento del seminario maggiore di Lione. Quindi in questi mesi di ottobre e novembre del 1812, quando il nostro eroe ha ormai compiuto 26 anni, ecco che inizia un corso regolare di studi presso questo seminario. E anche qui è il veterano della classe. Dovete sapere che anche il suo professore era più giovane di lui. Però lui non se ne preoccupò molto, perché era il più progredito nell'umiltà, che è la scienza dei santi. E le conoscenze umane, insomma, queste qui venivano in secondo ordine. La prima volta che fu interrogato in classe non capì neppure la domanda, perché la domanda era fatta in latino, così si usava allora nei seminari. E dovette starsene umilmente in silenzio, mentre da un banco all'altro scoppiarono delle risa, dato che i suoi compagni erano giovani, quindi anche in questo caso hanno dimostrato la solita reazione dei giovani di fronte a una cosa del genere. Quindi lui doveva molto faticare, non tanto perché non capisse le cose, ma perché non capiva il latino, che era la lingua ufficiale con cui si insegnava nei seminari, e faceva già tanta fatica a tradurre riga per riga le lezioni sulle pagine del libro. Immaginate voi, quando dovevano porgere delle domande doveva rispondere in latino, era molto molto confuso. Allora si pensò di dargli delle lezioni private in lingua francese a parte, e questo fu un espediente molto molto utile. In ogni caso, fu un anno molto duro per Giovanni Maria Vianney. Lui si rifugierà soprattutto nella preghiera, passerà lunghe ore in adorazione davanti al Santissimo Sacramento e sfogherà lì davanti a lui tutto il suo sconforto in certi momenti difficili. E però fece anche in questo periodo una grande cosa, un grande passo, quello che noi potremmo chiamare oggi l'atto di affidamento alla Madonna, la consacrazione alla Madonna. Allora si chiamava il voto di schiavitù, col quale si abbandonava completamente, totalmente a lei. Sentite un po' i voti che ha conseguito al termine di questo anno. Lavoro bene, condotta buona, carattere buono, però l'altro voto, che è quello che contava di più, scienza, molto debole. Ecco, tuttavia, anche con questo molto debole, che certo era una piena insufficienza, tuttavia Giovanni Maria Vianney fu ammesso a entrare nel seminario maggiore di Lione. Adesso un'altra canzone e poi concludiamo la storia per questa prima volta. Devo purtroppo concludere molto in fretta la storia, almeno fino all'ordinazione sacerdotale. Comunque le cose essenziali le posso dire. A questo punto Giovanni Maria Vianney, pur essendo stato promosso appena appena per il buco della chiave, tuttavia poté accedere al seminario maggiore di Lione per fare gli ultimi 2 anni di teologia prima di diventare sacerdote. In questo seminario c'erano delle regole strane che non si adattavano molto a lui, delle regole che lo stesso arcivescovo aveva emanato. Anzitutto molto decoro, voleva che i suoi sacerdoti fossero sempre distinti negli abiti e nel contegno esteriore. Prescrisse perciò l'uso della polvere per capelli, una specie di brillantina, penso, perché fossero sempre in ordine, e delle fibbie alle scarpe. E desiderava che i suoi seminaristi andassero in giro per le vie della città, possibilmente col mantello lungo, quando uscivano. Giovanni Maria, a quanto pare, non aveva tutti questi requisiti, perché era piuttosto trasandato nella persona e le sue scarpe non erano certo scarpe con le fibbie, sempre lucide. Comunque iniziano i corsi dell'anno 813-814 con i consueti esercizi spirituali e subito si notò in seminario, che contava 250 alunni, si notò questo volto di asceta, si notò soprattutto il suo raccoglimento, la sua modestia, lo spirito di penitenza, questa umiltà profonda che affascinava tutti i suoi compagni. Si dice che in questo seminario di Lione Giovanni Maria Vianney superava tutti i compagni per la sua modestia nello sguardo, nella parola, eccetera. E si racconta che passava lì davanti parecchie volte al giorno una fanfara svizzera che attirava naturalmente gli sguardi di tutti, ma lui mai una volta andò alla finestra a vedere la fanfara, proprio per spirito di abnegazione. Però ancora una volta si rivela il suo punto debole, che sono gli studi e soprattutto il latino. Tutti comprendono che non avendo fatto studi regolari lui era svantaggiato. E tutti in seguito, quando opererà quei prodigi meravigliosi, diranno: è stata la grazia di Dio, è stata la sua tenacia, ma è stata soprattutto la grazia di Dio, di cui egli fu visibilmente colmato. Ecco, è proprio vero nel suo caso più che mai che è proprio quando sono debole che sono forte. Dio manifesta la sua potenza attraverso la debolezza, ecco, e Dio sceglie i deboli per confondere i forti. Ebbene, ancora una volta Giovanni Maria Vianney viene istruito a parte con un manuale in lingua francese, in lingua volgare, e grazie a questo insegnamento meglio adattato fa dei passi avanti negli studi, dei passi avanti molto notevoli. Però agli esami semestrali, che si fanno verso il mese di febbraio, ecco che qui è l'inciampo tragico. Non capisce le domande, non dà alcuna risposta, per cui i superiori lo consigliano di ritirarsi dal seminario. Questo è il colpo più duro che abbia ricevuto in tutta la sua vita. Viene dimesso, lui le cui reliquie vedranno un giorno inginocchiato sotto la cupola di San Pietro il Sommo Pontefice, che le profumerà di incenso. Viene dimesso dal seminario, fu la prova più crudele della sua vita. Ecco, però dobbiamo dire che questa prova la sostenne con molta forza d'anima, con molta umiltà, senza tragedie. E gli venne il desiderio allora di tentare un'altra via, di lasciare la via degli studi sacerdotali per diventare fratello laico. Però tornato a casa da Don Carlo Balli, quello dice: no, adesso ci penso io, vedrai che ce la farai, adesso ti aiuto ancora per qualche mese perché tu possa imparare bene queste cose, queste nozioni fondamentali di teologia, poi ti iscriverò io all'esame per poter ricevere la tonsù, per poter ricevere gli ordini minori e il suddiaconato. Così avviene. Don Carlo Balli insieme al suo allievo lavorano sodo per questi 2 o 3 mesi, fin quando viene il mese di maggio e l'alunno viene iscritto agli esami nel seminario di Lione, come diciamo, come privatista. Bene, seduto all'ultimo banco attende il suo turno e quando viene chiamato per nome comincia a tremare, si confonde, non capisce le domande, si imbroglia, risponde in modo incompleto. Allora gli esaminatori dicono: esci un momento che ci consultiamo fra noi. Decidono così: ti rimandiamo a un'altra volta, però se vuoi andare da un altro vescovo, un'altra diocesi, puoi farlo tranquillamente, tentare a vedere se altri esaminatori sono più indulgenti di noi. Evidentemente volevano scaricare, declinare ogni responsabilità. Torna a casa da Don Carlo Balli, il quale dice: adesso ci penso io, andiamo a Lione insieme. Si recano presso il suo antico confessore, il quale li presenta a uno dei vicari generali. Si cercano in tutti i modi di presentare bene questo alunno, dire: questo alunno, guardate che è un capolavoro nella pietà, nella bontà, nello spirito di sacrificio, anche se, insomma, purtroppo ha iniziato gli studi molto tardi, per cui fa molta fatica. Beh, questo vicario generale, questo vice vicario generale, diciamo così, ha questo pensiero gentile: verrò stasera nella tua canonica insieme al superiore, insieme al rettore del seminario, esamineremo l'alunno privatamente a casa tua. Preparaci una bella cenetta e poi faremo l'esame di questo alunno. Ebbene, l'esame andò benissimo, rispose molto bene alle domande che gli furono poste, naturalmente in francese, e si rimase assai soddisfatti di lui. Allora, di ritorno da questo esame, andarono dal vicario generale principale, che in quel momento faceva le veci dell'arcivescovo cardinale Fesch, e chiesero il suo parere. Guardate cosa chiese il vicario generale a capo, che si chiamava Monsignor Courbon. Disse: il Vianney è pio, ha devozione alla Madonna, sa dire il rosario. E quelli risposero in coro: questo sì, caspita, è un modello di pietà. Un modello di pietà, bene, allora io lo ammetto all'ordinazione. La grazia di Dio farà tutto il resto. Ecco, mai questo vicario Courbon fu meglio ispirato. Purtroppo dobbiamo concludere, comunque la prossima volta continueremo la storia affascinante del curato d'Ars. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.